FreshBit di Giulia Crivelli. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. È uno dei primi versi del nuovo singolo di Adele, tratto dall'album 25, in commercio dal 20 novembre, già in cima a ogni classifica di vendita. Fisica, per di più, perché Adele ha deciso di non vendere il disco su Apple Store o altri musical e-tailers. L'espressione che ci interessa è California Dreaming. Il verso si può tradurre con: ciao, riesci a sentirmi? Sto fantasticando su ciò che una volta eravamo, quando eravamo più giovani e liberi. California Dreaming, infatti, si riferisce a uno stato mentale in cui ci si illude che qualcosa, in generale di bello, possa succedere. Uno stato d'animo che può sconfinare nella negazione della realtà, state of denial. Pensiamo ad esempio a un'amica che ci raccontasse: my boyfriend loves me and he would never cheat on me. Il mio ragazzo mi ama e non mi tradirebbe mai. Poi però scopriamo che lui l'ha in effetti tradita e gliel'ha pure confessato. Possiamo dire alla nostra amica: you were California dreaming. Un altro idioma interessante che ha per protagonista la California è Californication. Oltre a essere il titolo di una canzone del relativo album dei Red Hot Chili Peppers del 1999, è anche il titolo di una serie TV andata in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2014. Nel novembre 2007 i Red Hot Chili Peppers sporsero denuncia nei confronti del canale via cavo Showtime, che aveva prodotto e trasmesso la serie TV con David Duchovny, diventato famoso per X-Files, accusandolo di aver copiato il nome della loro canzone e dell'album. Showtime si difese sostenendo che la band non ha inventato il termine Californication, che comparve come sorta di participio passato del verbo neologismo to californicate, apparso sulla rivista Time nel 1972 in un articolo intitolato The Great Wild Californicated West. Tornando un attimo alla canzone di Adele, vediamo il primo verso. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. Ciao, sono io. Mi chiedevo se dopo tutti questi anni ti piacerebbe che ci incontrassimo per ripensare a tutto. Da notare qui è il phrasal verb to go over, ripassare, riguardare, ripensare, una lezione, ma anche un periodo della propria vita.